Ed eccoci con Enrico Castellani di Babilonia Teatri per parlare dello spettacolo Pedigree, che sarà al Teatro Biblioteca Quarticciolo qui a Roma dal 1 al 3 dicembre, quindi questa settimana. Enrico, ben ritrovato. Ciao, buongiorno, buongiorno a te Federico e a tutti gli ascoltatori. È sempre un piacere. Allora, questo lavoro vengo a vedermelo con curiosità, raccontaci un po'. Questo lavoro si intitola Pedigree, è uno spettacolo con cui abbiamo debuttato quest'estate ed è una sorta di lunga lettera che questo ragazzo, quest'uomo, con due madri che sono due donne, rivolge a questo, al suo donatore di sperma, e che in qualche modo pone una serie di questioni rispetto a nuovi diritti, nuove identità. Ma che in realtà poi racconta anche di relazioni tra padre e figli, che quindi, come dire, apre uno sguardo molto più largo sulle relazioni tra padre e figli, e non soltanto rispetto alle relazioni di tipo omogenitoriale che comunque spesso e volentieri oggi sono sulla bocca un po' di tutti quanti. Quello è stato il punto di partenza, ma non è l'unico arco di sviluppo dello spettacolo e del racconto che portiamo in scena. Sì, sì. Senti, com'era nato tutto, l'idea, il progetto? Tutto inizia da una provocazione di Rodolfo Di Gianmarco, che lo scorso anno ci aveva invitati a Garofano Verde, e dove poi abbiamo presentato una primissima versione in forma di lettura dello spettacolo. E tutto nasce da lì. Però appunto in realtà poi lo scenario di tipo omosessuale che dà il titolo alla rassegna di Gianmarco, come dire, qui è molto laterale, nel senso che è vero che c'è questa relazione omogenitoriale da cui si parte, però poi in realtà le questioni che vengono poste sono di altro tipo. Senti, la drammaturgia, insomma, su cosa avete voluto incentrare il lavoro? Ma lo spettacolo in realtà è un lavoro fondamentalmente di drammaturgia, anche se come dire, esistono poi all'interno dello spettacolo tutta una serie di immagini che evocano quello che le parole non dicono. Sì. E che quindi in qualche modo poi danno completezza al racconto. Quello che noi abbiamo lavorato, come spesso accade, sono punti di vista anche molto lontani tra di loro, contraddittori, che qui sono tutti quanti messi in bocca ad uno stesso personaggio in qualche modo, perché chi narra in prima persona sul palcoscenico, però è come se alcune delle posizioni che lui prende fossero quasi inconciliabili, e quindi il lavoro è stato sempre quello di provare appunto a creare una serie di cortocircuiti rispetto ai quali non esiste una risposta, non crediamo che esista, ma ci sembra che sia interessante stare all'interno di queste domande e condividerle con chi viene a vedere lo spettacolo. Sì. Enrico, per chi ci ascolta, raccontiamo anche un po' brevemente l'esperienza a Babilonia e anche la nuova stagione, dove vi porterà. Sì, ma noi nasciamo una decina di anni fa, Babilonia Teatri. E abbiamo sempre cercato di fare un teatro che si occupi di questo tempo, che stia all'interno delle contraddizioni che viviamo, che provi ad andare a mettere il dito nella piaga, a svelare una serie di ipocrisie che sono quelle che come un sottile velo coprono un po' tutto quanto. Ovviamente lo sguardo è spesso e volentieri uno sguardo che è critico, che è anche cinico nei confronti della società, ma che è ironico allo stesso tempo, ed è uno sguardo che comprende noi per primi, come dire, non ci chiamiamo fuori ma pensiamo di essere parte di questo mondo. Quindi un teatro che si occupa del suo tempo e della sua società, principalmente dei suoi margini tante volte, e questo l'abbiamo sempre fatto perché è nostra indole. In questi anni abbiamo fatto diversi spettacoli che sono stati, come dire, sempre molto riconosciuti, e quest'anno saremo appunto a Roma, poi da Roma scendiamo a Potenza sempre a presentare Pedigree. A dicembre saremo a Verona con Paradiso, che è lo spettacolo nuovo che ha da poco debuttato a Roma Europa, e poi principalmente questi due spettacoli si troveranno un po' in giro per tutta l'Italia da gennaio in poi. E potrebbe essere anche l'occasione per portare un vostro nuovo lavoro qui a Radio Teatro. Ma perché no? Magari volentieri. Bene, allora ci si vede al Teatro Biblioteca Quarticciolo, ripetiamo, con Pedigree dal 1° al 3 dicembre. Enrico, un abbraccio, un in bocca al lupo e alla prossima. Un abbraccio a te e che crepi il lupo. Ciao. Ciao, ciao. Ciao.